10. Ascolta e controlla. 1. Fanno colazione a casa. 2. Faccio tardi tutte le sere perché c'è sempre traffico. 3. Presto il computer a Giorgio per una settimana. 4. Sbagliano l'esercizio perché non fanno attenzione. 5. Non hanno voglia di stare a casa. Allora fanno 4 passi e guardano le vetrine. 6. Ragazzi, per favore, dovete fare silenzio. 7. Perché non fanno una vacanza? 8. Quando dai l'esame?